Linee d'ombra di Matteo Caccia. Erano gli anni della liberazione sessuale. Le ragazze avevano preso consapevolezza del loro corpo, del diritto al piacere, della potenza della contraccezione. Storie di sesso libero e di una decisione di gruppo in una puntata che si intitola Relazioni molto pericolose. Io mi domando spesso di voi come siate riuscite ad inventarvi. Non avevo scelta, vero? Sono una donna. Le donne sono obbligate ad essere molto più abili degli uomini. Potete guastarci la reputazione e la vita solo con poche parole bene scelte. Quindi è chiaro che io non ho dovuto inventare solo me stessa, ma espedienti di fuga cui nessuno aveva mai pensato. E ci sono riuscita perché io ho sempre saputo di essere nata per dominare il vostro sesso e per vendicare il mio. È una splendida Glenn Close quella che parla in questo pezzo di film che forse avete riconosciuto, proprio Le relazioni pericolose. Si intitolava quel film, c'erano lei, c'era John Malkovich, Michelle Pfeiffer, Uma Thurman, insomma un film incredibile e bellissimo, ormai del 1988, quindi si parla di 22 anni fa. L'abbiamo intitolato così questa puntata perché oggi appunto si parla di un rapporto proprio al limite, veramente una linea d'ombra che poteva decidere la vita della protagonista di qua o di là, protagonista che non sarà presente in questa puntata con la sua voce, ma racconteremo solo la sua storia. E poi invece la seconda storia è una storia un po' meno, un po', diciamo, più leggera, meno pericolosa come relazione, ma che ha un titolo molto divertente, si intitolerà L'anno del dragone, e tra pochissimo capiremo il perché. E poi ovviamente Antonio Cocco e la sua personalissima linea d'ombra. Mettetevi comodi, benvenuti a Linee d'ombra. Era il 1980, l'anno del terremoto in Irpinia. Approfittando del grande sconforto per le quasi 3.000 vittime e presa dalla frenesia collettiva di partecipare alla ricostruzione, a 20 anni ho abbandonato gli studi universitari e mi sono messa al servizio della comunità. Ho così facilmente ottenuto il mio primo lavoro e l'avere avuto anche un alloggio personale dal comune di appartenenza mi aveva riempita di quel sacro fuoco di onnipotenza che solo a 20 anni ti pervade. Ero completamente impreparata ad affrontare la vita da sola e nel giro di pochi mesi ho sperimentato tutto quello che la mia vita precedente, pilotata e protetta all'interno di una famiglia piccolo borghese, mi aveva precluso. Ero giovane, carina e libera. Quel senso di precarietà che aveva contagiato molti spingeva a vivere come se non ci fosse un domani, senza limiti, senza paure. Nel paese aleggiava un senso di precarietà e di carpe diem, per cui tutto quello che ti andava di fare lo si faceva, senza pensare troppo alle conseguenze. Erano gli anni della liberazione sessuale. Le ragazze avevano preso consapevolezza del loro corpo, del diritto al piacere, della potenza della contraccezione. Insomma, ero propensa a farmi corteggiare con leggerezza, diciamo così. E accadde praticamente subito. Un rinomato professionista di non molti anni più di me, ma di notevole maggiore esperienza, mi corteggiò e io abboccai. Era una cosa leggera. Ci vedevamo una volta alla settimana, lasciando spazio ad entrambi per la frequentazione di altre persone. Io mi nutrivo della sua notevole esperienza e ne facevo risorsa. Non ero innamorata e non pensavo assolutamente a un rapporto con un futuro, però gli ero fedele. Non fosse altro in quanto appagata, viste le mie scarne esperienze acquisite in precedenza. Dopo un certo periodo, all'improvviso scomparve per riapparire dopo un mese e informarmi che nel frattempo si era sposato con la fidanzata storica, di cui nulla sapevo. Inevitabile coronamento di anni di fidanzamento. Naturalmente mi propinò le solite storie di un rapporto già logoro, di un passo effettuato per compiacere le rispettive famiglie, ed io, che comunque non mi aspettavo da questa storia un futuro, mi bevvi tutto e accettai la clandestinità. Lui era sempre divertente ed esperto, io perennemente ubriaca della mia nuova vita. Tutto ok, insomma. Ci vedevamo un po' di meno, ma ci stava. La nostra relazione è qualche cosa di diverso. Non è per niente amore e non è forse neanche sesso. imitiamo vivere dentro nello stesso letto. Un po' per abitudine, o forse un po' anche per dispetto. Non è un segreto, dai, lo sanno tutti, e tu sei buffa quando cerchi di nasconderlo alla gente che ci vede litigare per qualsiasi cosa o niente, per la noia che da sempre ci portiamo. La nostra relazione oramai non ha più senso. Tu hai le tue ragioni ed io sono forse troppo stanco. Tra l'altro non è facile ricominciare tutto. Lasciamo stare, dai. Non rifacciamo un letto ormai disfatto. Non è un segreto, dai. Lo sanno tutti e tu sei buffa quando cerchi di nasconderlo alla gente che ci vede litigare per qualsiasi cosa o niente, per la noia che da sempre ci portiamo dentro, è inutile negarlo. I dubbi iniziarono più avanti, quando la moglie venne a conoscenza della tresca. Mi contattò intimandomi di lasciare libero il marito, dicendo di sapere che spesso era con me e minacciando varie ritorsioni. Io non capivo. Ci continuavamo a vedere, sì, ma non così spesso e comunque non quando lei credeva che fossimo assieme. Arrivò persino ad affrontare mio padre per informarlo che la figlia le stava rubando il marito. E questa fu la conseguenza più dolorosa di tutta questa vicenda, in quanto aprì una profonda ferita e mi allontanò per molto tempo dalla mia famiglia. Una sera lui mi raggiunse nel mio alloggio, a sera tardi, e, pressato dalle mie richieste di capire che cosa stesse accadendo, mi confessò, piangendo, di essere bisessuale. Non poteva cambiare la sua indole. La moglie da un lato e l'amante dall'altro servivano soltanto a coprire le sue vere pulsioni. Mi confidò che una sera a settimana raggiungeva un locale frequentato da gay nel capoluogo e dava sfogo alla sua vera natura. Mi raccontò che alcune volte si era anche prostituito con partner occasionali e di vivere queste perversioni con profondo timore per la sua posizione di noto imprenditore e neosposo, ma non poteva farne a meno. Passò ore a piangermi addosso, ma ritengo di essergli stata di scarso conforto data la mia completa ignoranza in materia. Naturalmente non volli più vederlo e anzi, poco tempo dopo iniziai a frequentare un suo caro amico che talvolta gli aveva fornito degli alibi con la moglie quando ci vedevamo io e lui. Ricordo l'incredulità di Mario, l'amico, quando gli raccontai della vera natura di quell'uomo, di cui mai aveva avuto il minimo sentore. Dopo alcuni anni seppi che aveva contratto l'AIDS, si curava, si era separato dalla moglie e viveva con una ragazza, anche lei sieropositiva, con cui aveva condiviso gli ultimi anni un mutuo soccorso, prima poi di morire, appunto, a causa dell'AIDS. Per qualche tempo ho temuto che i nostri trascorsi potessero avermi trasmesso un contagio, ma in questo fui fortunata. E poi lo sono stata ancora di più, perché io e Mario, a distanza di oltre 40 anni, siamo ancora una coppia solida, perché ho avuto la fortuna, dopo un paio d'anni di bagordi, di approdare con lui, al riparo, in un porto sicuro. E tu e noi e lei fra noi vorrei, non so che lei o no, le mani le sue, pensiero stupendo poco strisciando, si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non dire, cadere, sai. Si può scivolare, se così si può dire, questione di cuore. Pensiero stupendo, nasce un poco strisciando. Si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non dire. E tu ancora e noi ancora e lei un'altra volta fra noi. Le mani questa volta sei tu. E abitualmente, se siete dei fan di Linea d'Ombra lo saprete, o se siete degli ascoltatori occasionali, che di solito alla fine di ogni storia noi sentiamo il protagonista, l'autore di quella storia. In questo caso Donatella ha preferito rimanere anonima, ha preferito non partecipare e quindi non sentiremo la sua voce, ma la ringraziamo comunque per averci mandato questa storia. Allora cosa facciamo? Ve ne raccontiamo un'altra di storia. Sono quelle che noi abbiamo definito piccole linee d'ombra, sono delle storie che sono semplicemente minute, sono un pochettino più brevi, ma non per queste meno intense, e parlano ovviamente di linee d'ombra. E la prossima che vi raccontiamo è una linea d'ombra che ha a che fare sempre con l'amore, ha a che fare sempre con delle relazioni che però non sono molto pericolose, al contrario, sono relazioni che corrono tra le strade degli Stati Uniti, in un'epoca in cui gli Stati Uniti erano ancora molto lontani rispetto ad oggi, che sono facilmente raggiungibili con un volo aereo, sempre quando si può tornare a prendere un volo aereo, e tra queste strade, in questi mesi trascorsi all'interno delle strade e degli stati americani, succede qualcosa che alla fine è la storia che noi tutti conosciamo. Un uomo e una donna si incontrano, all'inizio sembra che ma chi lo sa, e alla fine invece accade qualcosa che si chiama amore. Buongiorno, sono Gianfranco e questa è la mia storia. Stiracchiando il senso delle parole, si può dire che una linea ferroviaria e un treno che viaggia nel buio rientrano nelle linee d'ombra? Non lo so. Come non so se la storia possa interessare a qualcuno. Comunque, comincio da lì a raccontarla. La linea ferroviaria, ora dismessa, era quella tra La Junta e Denver, nel Colorado. Era un segmento di un viaggio di studio di 3 mesi ed ero in compagnia di altri 8 insegnanti di inglese, 2 uomini e 6 donne. Con loro avevo trascorso alcuni giorni nella capitale degli Stati Uniti per ricevere documenti e istruzioni. Seguì una serie di visite ed esperienze interessanti, tra cui il giorno dell'indipendenza, ospiti di una famiglia in una cittadina a ovest di Chicago, poi il parco di Yellowstone e un paio di tappe prima di trascorrere quasi una settimana a San Francisco. La meta finale di questo viaggio, per la maggior parte in treno, era un'università di Los Angeles, dove ci attendeva un corso di formazione linguistica e didattica di 6 settimane, e dove arrivammo alla vigilia del primo sbarco sulla Luna, che là avvenne la sera del 20 luglio 1969. Al termine, un altro mese di viaggi e visite di ogni genere, passando per il Grand Canyon del Colorado, Albuquerque, New Mexico, Denver, di nuovo Chicago, per chiudere il cerchio del viaggio in treno e in autobus, alcuni giorni a Pittsburgh, infine di nuovo il ministero a Washington per dare tutti i giustificativi di come avevamo speso la borsa di studio. A conclusione poi, alcuni giorni a New York e ritorno in Italia. Alcuni compagni di viaggio li avevo già conosciuti in occasione di convegni o corsi di formazione in Italia, ma una di loro l'avevo vista per la prima volta nella sala delle partenze di Linate il giorno dell'imbarco per Parigi e poi Washington. Non mi aveva fatto una particolare impressione, simpatica, molto garbata, ma meno estroversa di altre colleghe. Però piano piano scoprimmo che ci trovavamo molto bene noi due insieme. Qualche chiacchierata al bar vicino al campus negli ultimi giorni a Los Angeles, qualche confidenza mentre ammiravamo il tramonto sul Grand Canyon. E, quando ci trovammo seduti vicini su quel treno, ebbi il coraggio di superare la linea della mia timidezza e dirle quello che provavo per lei. Era il 7 settembre 1969. Il 29 giugno 1970 ci sposammo. Questo significa che da poco abbiamo festeggiato le nozze d'oro, festeggiate a modo nostro, visto che Anna Maria ora è costretta a stare tra letto e carrozzina. Abbiamo 3 figli e 3 nipoti. Il nome di La Junta, che è in Colorado, anche se è semplicemente la traduzione dell'inglese railway, cioè ferrovia, dato alle stazioni dove le linee locali si congiungono a quelle principali, è stato davvero profetico. Siamo tuttora una coppia molto unita. Make no mistake, I don't do anything for free. I keep my enemies closer than my mirror ever gets to me. And if you think that there is shelter in this attitude, where do you feel the warmth of my gratitude? I get the feeling that it's 2 against 1. I'm already fighting me, so what's another one? Dimension. They'll tell it that this ain't no free for all to see. There's only 3. It's just you and me against me. I get the feeling that it's 2 against 1. I'm already fighting me, so what's another one? The mirror is a trigger and your mouth's a gun. Lucky for me, I'm not the only one. Lucky for me, I'm not the only one. Se avete voglia anche voi di mandarci la vostra linea d'ombra, piccolo o grande che sia, linea d'ombra, @radio24.it. Ora ascoltiamo le borse in diretta e poi torniamo con un'altra storia di linee d'ombra che hanno a che fare con le relazioni più o meno pericolose, che non accadrà sulle strade degli Stati Uniti, ma in mezzo alle strade d'Europa. Se scrivere aiuta a ricordare quello che abbiamo vissuto, raccontare a voce ci permette di vedere meglio quello che stiamo vivendo. La mia linea di confine si lega a quello che faccio. Io sono maestro elementare e sento di essere sul confine. Ecco perché da quest'anno vi chiediamo di raccontare anche a voce la linea d'ombra in cui vi trovate, quella che state attraversando in questo momento della vostra vita. Devo dire che questo 2020, almeno a me, ha messo seriamente... Se state vivendo una fase di passaggio da un vecchio lavoro a uno che verrà, da una casa che abbandonate a una che riempirete, da un amore andato a uno che prima o poi arriverà, insomma, da una vecchia vita a una vita nuova. Ecco la mia linea d'ombra e adesso sono qui con mio Prendete padre, il telefono, aprite WhatsApp e raccontateci a voce la linea di confine in mezzo a cui vi trovate. 331 57 55 721. Questo è il numero WhatsApp di Linee d'Ombra. Raccontateci chi eravate prima e chi forse diventerete poi. 331 57 55 721. Linee d'ombra. Relazioni molto pericolose, si intitola la puntata di oggi. E dopo la storia di Donatella, che appunto, come avrete capito, non ha partecipato, ha preferito non partecipare a questa puntata, ha deciso di rimanere anonima, e tant'è, ovviamente noi acconsentiamo sempre, non obblighiamo nessuno a prendere parte al programma, semplicemente se uno ci manda la storia chiediamo il permesso di poterla raccontare. Insomma, dopo questa storia ve ne raccontiamo un'altra che, diciamo, non è esattamente una relazione molto pericolosa o particolarmente pericolosa, però racconta sì di una linea d'ombra di cui si parla poco in età adulta, ma quando si è giovani quello è un confine che insomma varcarlo o non varcarlo fa una grande differenza. La storia l'ha raccolta Mauro Pescio all'interno di quella serata che tiene a Roma una volta al mese, che si chiama Mio Cugino, quando è possibile ovviamente fare spettacoli dal vivo, in cui invita delle persone a raccontare delle storie importanti per loro, e questa è la storia di una giovane donna che ricorda come è stato varcare quel confine tra la verginità e la non verginità. State con noi. Vi racconto una storia che va molto indietro nel tempo. È il 1987, io ho 18 anni e frequento l'ultimo anno del liceo. Con il mio gruppetto solito di amici, tre ragazze e due ragazzi, siamo abituati a trovarci quasi tutti i giorni, dopo le lezioni, a cazzeggiare, con grandissimo piacere. Durante i nostri pomeriggi oziosi si sprecano le confidenze e le confessioni. E proprio durante un pomeriggio di questi, ai primi di settembre, poco prima di cominciare l'anno della maturità, viene fuori una cosa clamorosa. Noi cinque siamo gli unici di tutta la classe che non hanno ancora fatto l'amore. La rivelazione non prende di sorpresa nessuno, ma quello che invece sorprende tutti è che, invece di disperarci, come forse avremmo dovuto, decidiamo di fare un patto di ferro. Guardandoci nelle palle degli occhi, dichiariamo a noi stessi e ai nostri fratelli e sorelle di verginità che avremo un anno a disposizione per portarci alla pari con gli altri e passare dall'altra parte della barricata. Il patto che facciamo lo sanciamo con un nome che non ammette repliche. L'anno scolastico 1987-88 non sarà per noi l'anno della maturità, ma sarà l'anno del dragone. Adesso non saprei dire perché, ma insomma... E queste tre, siamo tre, come ho detto, sì, tre donne e due uomini, più o meno coetanei, qualcuno un po' più giovane di me, insomma un anno di meno, ma insomma più o meno tutti in terza liceo. Sì, no, vabbè, che tutti avevano perso la verginità più o meno un paio d'anni prima, chi più chi meno. Io mi ero ritrovata con le mie migliori amiche che a 16 anni si fidanzavano, si innamoravano, appunto, e passavano un po' dall'altro lato. Io avevo avuto una sfortuna, vabbè, mi ero fidanzata con uno che poi dopo era diventato gay, quindi non avevo avuto modo di esplorare la faccenda sessuale. Io prendo la cosa molto seriamente. Una settimana dopo aver preso la decisione, decido di partire con due amiche che erano, almeno ai miei occhi, già molto esperte, tranquille e navigate, per fare un piccolo interrail. Io, con la scusa di aspettare loro, che avevano delle materie a settembre, spero di avere un vantaggio sugli altri, grazie all'esperienza di quelle due amiche. Andiamo così a fare un piccolo giro prima dell'inizio della scuola. Il programma prevede prima Monaco di Baviera, poi Amsterdam e poi Parigi. La mia segreta speranza è quella di trovare il ragazzo con cui compiere il primo passo. A Monaco, nella prima tappa, le possibilità ci sarebbero anche. Avevamo conosciuto dei ragazzi a Roma, in Piazza di Spagna, che ci avrebbero ospitati, ma niente, non accade nulla. Ad Amsterdam nemmeno, perché per la nostra generazione il viaggio ad Amsterdam rappresentava una tappa obbligata per sperimentare delle sostanze stupefacenti. Io, che ne ero appassionata, mi esalto. Avevamo deciso di passarci solo poche ore, ma in quelle poche ore, più che fumare, pensiamo di fare acquisti, senza pensare che poi avremmo dovuto attraversare altre frontiere e non era certo il caso di farlo con dell'erba in tasca. Per fortuna passiamo la dogana e arriviamo a Parigi, ma nemmeno là, niente. Insomma, sconsolata, me ne ritorno a Roma. Obsession, but we have a thing in charge. Una magra consolazione mi arriva dal fatto che alla riunione post Interrail del gruppo dell'Anno del Dragone nessuno ha novità succulente da raccontare. Intanto, l'ultimo anno di scuola è cominciato, ma la distanza fra noi cinque e tutti gli altri sembra aumentare ai nostri occhi. Gli altri passano il tempo a flirtare, a prendersi, a lasciarsi, a baciarsi, a fare l'amore. Noi cinque non battiamo chiodo. Forse per questo, una sera, dando la colpa della nostra condizione alla nostra inesperienza sessuale, chiediamo a uno dei nostri due amici maschi di affittarci un film pornografico. Lui va al videonoleggio, ci affitta il porno. Ci passiamo un sabato sera a casa di mia mamma, dove fumiamo tantissimo e ci disgustiamo per quel porno. L'inesperienza evidentemente non ci rende la cosa eccitante, ma soltanto brutta, e la nostra situazione peggiora. L'anno continua a passare, ma niente. Bacio delle persone, ma poco di più. Mi sento quasi congelata e ho la sensazione proprio che sarei dovuta rimanere la vergine di ferro. Invece qualcuno un po' si fidanza, un maschio si fidanza e sdragona. Eh sì, c'era questo verbo. Una femmina anche si fidanza e sdragona pure lei. Alla fine l'estate arriva e anche lì sono un po' gli ultimi mesi, perché a settembre scade l'anno del dragone e effettivamente io e un'altra ragazza rimaniamo un po' così. Voglio fare nomi, ma insomma anche un altro maschio, il quale però fa un serio Interrail come li facevano i maschi e va in Finlandia e lì va tutto a posto, insomma fa il grande salto, sdragona pure lui. Così passa l'anno scolastico, supero la maturità scolastica, ma non mi sento affatto matura da quell'altro punto di vista. A settembre ci ritroviamo per la resa dei conti. L'anno del dragone è finito e io e un'altra amica siamo rimaste vergini. Non c'è niente da fare, è andata così e ora ci aspetta la sentenza. Ma gli altri, che ormai si sono emancipati, sono molto gentili con noi, molto carini e magnanimi, e ci danno una proroga. Ci dicono: facciamo così, facciamo che siete rimandate, come le materie a settembre. Vi diamo sti 3 mesi e prolunghiamo fino alla fine del 1988. Però dovete impegnarvi. Ed è soltanto grazie alla proroga se io e l'altra amica, che nel frattempo ci fidanziamo con due amici, sicuramente nella nostra stessa situazione, ecco, dicevo, è solo così che a novembre, nello stesso giorno ma in due posti diversi, compiamo questo grande rito, con successo relativo, ma soprattutto non credo sia stato merito né delle canne né del porno. questa è una storia che ha raccontato la protagonista di questa storia a mio cugino, cioè la serata che Mauro Pescio tiene, quando è possibile tenerlo ovviamente, a Roma dal vivo, in cui invita a raccontare storie bizzarre che sono accadute. Se avete voglia di fare una ricerca, trovate sicuramente il profilo Facebook di mio cugino. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare, sempre qui a Linee d'Ombra. Linee d'Ombra. In ogni grande storia, ma anche in ogni piccola storia, dove per piccola si intende minuta, c'è sempre un momento in cui il protagonista deve compiere un gesto eroico, cioè deve fare qualcosa, eroico tra virgolette ovviamente, in valore assoluto, in cui deve fare qualcosa che è la sua linea d'ombra, cioè deve varcare un confine e lì si capisce se la storia andrà in una direzione o nell'altra, se finirà bene o se finirà male. Noi stiamo esattamente percorrendo la linea d'ombra della storia di Antonio Cocco in questi episodi, perché, e tra poco sentiremo dalla viva voce di Gianni Cocco, cioè di suo fratello, di Aldo Serra e Gianluigi Cortese, che sono parenti e amici della famiglia Cocco, ci racconteranno le loro voci come Antonio cerca di fuggire. Cerca di andarsene dall'Algeria e cerca di tornare a Venezia. È totalmente illegale quello che sta per fare, non può farlo, sarebbe considerato un disertore da parte della Legione Straniera. Teniamo presente che moltissimi cercavano di scappare dalla Legione Straniera, moltissimi cercavano di disertare per via di quella vita da inferno in terra, come racconta esattamente Antonio nelle prime lettere al padre. Ebbene, in questa puntata cerchiamo di capire dove inizia e dove finisce quella linea d'ombra e soprattutto che direzione prende. Nella puntata di oggi, Gianni Cocco, Aldo Serra e Gianluigi Cortese ricostruiscono il tentativo di fuga fallito di Tony. Il piano di fuga, quello vero, lo mette a punto a Saida assieme a un commilitone olandese. L'amico olandese aveva a sua volta un amico che era rappresentante di una grande compagnia di navigazione e con base a Orano. Organizzano un piano per cui l'amico gli andrebbe, deve andarli a prendere a Algeri, portarli a Orano e farli imbarcare su una nave. Tony chiede al padre di mandare la bellezza di 75.000 franchi al console ad Algeri da utilizzare in caso di emergenza per pagare cose eccetera eccetera. Dicendo, io poi vado ad Algeri, passo dal console, mi prendo i soldi, arriva quello della compagnia di navigazione, io e Teo, che nella legione straniera si faceva chiamare Martin Biestra, ci imbarchiamo. Anzi, era sicuro, tant'è vero che dice, tra 30 giorni al massimo sarò lì, ci vediamo papà. E scrive il padre di Antonio, Luigi scrive al console, guardi, mi permetto di chiedere soltanto nel caso mio figlio dovesse farsi presente, presentarsi, mi faccia il piacere di dare i soldi, metta a disposizione quanto gli serve, che provvederò poi io a rimborsarle immediatamente. Capisco di chiedere una cosa fuori dall'ordinario, ma lei deve comprendere qual è la mia angoscia in una situazione del genere e mi perdoni. Quindi il piano è serio, anche il padre lo prende per piano serio. Cosa succede? 3 giorni prima di questa lettera di Luigi Cocco al console, peraltro, Antonio aveva spedito una lettera al padre dicendo domani parto per l'Indocina, sono in tale stato che non so cosa scriverti. Era successo che dovevano scappare la domenica. Il sabato Tony era stato trasferito da Saida a un'altra caserma, un altro forte a Nau Vion, e lì era andato a cercarlo l'amico olandese Martin. Tant'è vero che per qualche momento, siccome gli avevano detto ad Antonio, lui era di guardia, che lo stavano cercando, lui aveva temuto addirittura che fosse il padre, perché non poteva immaginare che Martin avesse ricostruito rapidamente la cosa e che avesse capito che era lì. E lui era di guardia, quando lo dicono che lo stanno cercando, butta il fucile e scappa. E dopo un'ora di corsa viene fermato dalla polizia militare e il giorno dopo spedito ad Algeri e da Algeri mandato con l'anticipo di un mese e mezzo in Indocina. Mentre Martin, che era riuscito a scappare da Saida, era andato a Orano dall'amico, aveva combinato tutto per l'imbarco il giorno dopo, aveva preso una Citroën, era andato a prelevare a Nauvion Antonio, era stato però fermato dalla polizia militare e era stato spedito in un centro di detenzione nel Sahara, a Colombes-Char, dove rimase ai lavori forzati, doveva rimanerci 6 mesi, ci rimase per un anno. Grazie davvero ancora a tutta la famiglia e agli amici della famiglia Cocco, grazie a Mauro Pescio che racconta questa storia. Vi ricordo che questa storia potete trovarla in un blocchetto di 5 puntate secche secche, tutte tenute insieme, 5 episodi, o online oppure il sabato alle 21.30 in un episodio speciale di Linea d'Ombra. Vi ricordo anche che potete mandarci quando e come volete la vostra Linea d'Ombra, un racconto di un paio di pagine che racconti qual è stato il confine importante della vostra vita. Linea d'Ombra @radio24.it. Noi la prendiamo, ci facciamo una puntata. Grazie a Paolo Corleoni, a Mauro Pescio, a Anita Panizza e a Luca Micheli. Ora lasciamo la linea al GR e torniamo domani, puntualissimi, per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!